due parole e poi lasciamo la parola all'uomo. Vabbè, abbiamo organizzato queste mostre che avete potuto vedere con Inguine e con che abbiamo presentato ieri, che è una rivista insomma che potete vedere l'ultimo numero che hanno fatto, ha fatto tutto il numero dedicato al carcere. E vabbè, niente, poi loro sono qua, volendo magari dopo gli riproponiamo, se non voglio dire due parole o se qualcuno vuole chiedere qualcosa rispetto alle tavole e ai disegni che avete visto. Poi abbiamo deciso di presentare Il Gambero Nero, che è questo libro di cui vedete le foto esposte, edito da Deriva Prodi, abbiamo qua Sergio che è l'editore, e poi appunto questo libro di Michele Marziani e Davide Dutto. E niente, ci sembrava interessante innanzitutto farlo in questo posto, che fondamentalmente noi siamo abituati a fare le nostre cose in un posto piccolino, periferico, contraddittorio alla periferia, insomma, e ci piace invece organizzare delle cose in centro del paese, in un posto un po' anomalo per noi, sembrerebbe, però ci piace molto, ci piacerebbe anche magari rimanere più spesso. Poi appunto volevo... E niente, vabbè, a parte le battute, niente, insomma, ci fa sempre piacere, insomma, organizzare delle cose del genere, portare appunto riviste come Inguine che vengono dall'autoproduzione, libri di Deriva Prodi, che, cioè, insomma, non lo so, è difficile spiegare in poche parole il senso di fare queste cose, che però sono importantissime, sono veramente importanti anche farlo in un paese come Pietrasanta, che a volte sembra di essere veramente lontano da tutta una serie di cose, però appunto alla fine ci si riesce lo stesso, insomma. Buona, basta, darei la parola ad ora insomma. C'è Michele, non c'è Davide, è tutto, che è il fotografo, perché aveva un lavoro da fare e non è riuscito a venire, e niente, ci racconta un po', non so, se prima Sergio, Michele, questa avventura qua.